Benissimo, come al solito ringrazio per l'accurata selezione del clan e tutto lo staff di Web Radio Luzzi. E niente, prima di iniziare io volevo darvi più o meno alcuni dei punti che tratteremo durante questa nuova stagione. Alcuni sono basati sulle eclissi, l'argomento delle eclissi tratteremo, della stregoneria, delle storie di streghe e di elfi. E poi c'è un'accurata selezione per quanto riguarda, io qui ho una scaletta sulla quale ho scritto più o meno quali sono gli argomenti in linea di massima, il malocchio, la sfortuna e altri argomenti che voi avrete naturalmente la bontà di suggerirci come è avvenuto durante la stagione precedente, in cui alcuni miei contatti Facebook hanno osato appunto suggerirmi degli argomenti che ho trovato molto interessante e che quindi sono stati trattati. Quindi invito anche voi di contattare il Clan 05 per poter dare suggerimenti su argomenti che vi piacerebbe che noi qui a Web Radio Luzzi trattassimo. E niente, in occasione appunto di queste nuove puntate della rubrica di Sulle Linee d'Ombra, io colgo l'occasione per dire che quest'anno il Clan 05 ha voluto farmi dono di un'altra rubrica di genere prevalentemente noir. Io sto studiando appunto un palinsesto che voi possiate trovare interessante e vi invito anche questa volta a contattare la sede di Web Radio Luzzi per poter fornire dei suggerimenti in merito appunto al genere noir che tratteremo in questa nuova rubrica. Nel frattempo, adesso direi che è proprio il caso di addentrarci in quello che è l'argomento che io ho scelto per voi, ovvero per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, io ricordo che ho scelto l'argomento della lettura della mano. La lettura della mano che appunto non è semplicemente come dire, una lettura basata sul futuro, ma anche sul passato, anche una lettura che può essere focalizzata sui tratti caratteriali di una persona. Ovvero attraverso l'osservazione scrupolosa del palmo della mano si può venire a conoscenza di quelle che sono le sue caratteristiche caratteriali, ovvero dalla forma della mano, anche dalla lunghezza delle dita, dalla dimensione delle unghie, si può capire come effettivamente una persona sia caratterialmente. E ci sono tante linee, appunto. Che si dovrebbe riuscire ad individuare, quale ad esempio la linea della vita e dell'amore, il monte di Giove che ha dei particolari significati, la croce mistica che può esserci o non esserci su una mano, e l'area protettiva, la grandezza dell'area protettiva. Queste sono soltanto delle caratteristiche che appunto sono carpibili dall'osservazione non solo del palmo, ma dell'intera mano. La mano, a seconda della forma e della dimensione che essa ha, può essere circoscritta in determinate caratteristiche. Quali ad esempio? La mano può essere appuntita, può essere conica, a spatola e quadrata. Ognuna di queste forme che la mano ha può, come dire, far capire quella che è la caratteristica caratteriale di una persona. Io partirei con il descrivere la mano appuntita. Ognuno di voi, io, questa è una cosa che ho fatto mentre leggevo questo manuale, mi sono fissata sull'osservazione della mia mano. Sicuramente penso che questa è una cosa che faranno molti di voi mentre io parlo. Io parto dalla mano appuntita, che è una mano lunga e stretta. Ed è sostanzialmente molto magra, ha le dita sottili e le estremità appuntite. È una mano molto graziosa sostanzialmente. E questa cosa qua indica idealismo. Amore e preferenza per la bellezza. Denota soprattutto forte intuizione e natura molto pratica. In queste persone si riscontra la volontà ad accettare responsabilità. Quanti di voi, vorrei sapere, hanno una mano appuntita? Anche perché si dice che la mano appuntita sia sostanzialmente la mano più rara da trovare. Penso che sia una mano sostanzialmente femminile la mano appuntita, perché denota molta grazia, quindi anche perché io denoto nel carattere femminile più che in quello maschile la propensione ad accettare più responsabilità. Non me ne vogliano a male il pubblico maschile che è all'ascolto attualmente, ma credo che sia sostanzialmente una mano femminile. Restate con noi perché proseguiremo nello studio.